America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. The attack on the judicial branch stunned Judge Gorsuch, who told senators on Capitol Hill he felt Mr. Trump's recent comments were disheartening and demoralizing. Beh, avete sentito il giudice Neil Gorsuch. Chi è il giudice Gorsuch? Beh, è il giudice prescelto da Donald Trump per sostituire Antonin Scalia alla Corte Suprema. Dunque, un giudice conservatore, appena scelto dal presidente, si sono incontrati alcuni giorni fa alla Casa Bianca, eppure che è successo? Che Gorsuch ieri ha detto di essere molto demoralizzato, amareggiato per le dichiarazioni che Donald Trump ha fatto sui giudici, su quei giudici che hanno bloccato il suo ordine esecutivo che dovrebbe autorizzare il blocco dell'immigrazione di musulmani in arrivo da 7 paesi, appunto, islamici. Ecco, questa cosa mi ha colpito perché, insomma, è un attacco contro Trump che viene dall'interno, da un suo uomo. Altra notizia, lo Yemen ha bloccato ogni operazione di terra militare, naturalmente, condotta dagli Stati Uniti. Perché? Perché la settimana scorsa Trump ha ordinato il suo primo attacco militare contro Al-Qaeda, appunto nello Yemen. Questo attacco non ha funzionato, o meglio, ha funzionato perché ha portato documenti, ha portato una serie di cose che secondo Trump erano importanti. Però c'è stato un morto americano, ci sono stati molti morti civili, insomma è un'operazione che non ha funzionato, si è perso anche un elicottero, e dunque Trump si scontra anche con la realtà delle cose, cioè la giustizia che si muove in modo autonomo, le operazioni militari che non necessariamente funzionano. Io do queste notizie, però so già che qualcuno mi attacca, dirà: ecco, Platero è antitrampiano, dà queste brutte notizie. Eppure queste sono notizie. Allora, per dimostrare che invece io cerco di dare le notizie nel modo più imparziale possibile, perché tutti dobbiamo averle per poter valutare quello che succede, o come una persona che invece difenderà Trump, proprio per far vedere che non sono a favore di Trump. Maria Giovanna Maglie. Buongiorno, Maria Giovanna. Eccomi, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Eccoci, allora, Maria Giovanna Maglie ha scritto un libro addirittura su Donald Trump, The Real Donald Trump. E devo dire, io la seguo, Maria Giovanna, ci conosciamo da un sacco di tempo, e lei ha sempre puntato su Donald Trump. Maria Giovanna, allora, intanto brava per questo libro bellissimo, ma secondo te si possono dire delle notizie senza lasciare intendere che tu sei contro Trump? Ci mancherebbe altro, è proprio questo che manca, rischia di mancare nel primo periodo di insediamento del nuovo presidente, cioè rischia di mancare la critica obiettiva, la critica anche da oppositore della linea di Trump, della politica di Trump, ma fatta sugli argomenti e non fatta sulla gola gonfia e la pancia che vibra, che è una cosa fastidiosissima perché Donald Trump è stato eletto, è il 45esimo presidente. Quanto allo Yemen, io credo che la missione in Yemen fosse programmata già da tempo, quindi dubito che sia stata una cosa che Trump ha studiato da solo a tavolino. Sì, sì, no, hai assolutamente ragione, è stata addirittura, era programmata da Obama, però poi aspettato, non c'era la luna, le cose, i militari non sapevano, però la decisione formale... Rientra nei poteri del presidente, che venga più o meno bene, rientra anche nel rischio di un paese come gli Stati Uniti d'America. Una cosa mi preme sottolineare, vedete già da ora che Donald Trump non è il presidente isolazionista che ritira tutto nei confini d'America che è stato dipinto. Ecco, allora hai toccato un punto centrale, perché io amo ripetere che con Donald Trump molte cose, they get lost in translation, come nel film, si perdono nella traduzione. E dunque lui fa una battuta sulla NATO e tutti dicono Donald Trump è fuori dalla NATO. Io in realtà ho sempre detto che lui non sarebbe mai uscito dalla NATO, perché era contro l'interesse degli Stati Uniti, voleva cambiare la missione della NATO. Eppure viene interpretato male. C'è voluta la visita della signora Theresa May perché tutti dicessero, ah vedi, è al 100% con la NATO. E chi l'ha detto? L'ha detto la signora May. Mi ha fatto un'impressione vederli insieme, perché sembrava che lui fosse come uno scolaretto con la nanna inglese vicino, no? Che diceva, no, Donald, you said 100%, hai detto il 100%. Ecco, c'è necessità di tradurre Donald Trump? Forse ancora non ci siamo abituati a questo suo linguaggio? Non c'è dubbio. Donald Trump usa un linguaggio di post-politica. Basta vedere quanti tweet fa al giorno e basta vedere come usi social network, spesso in contrapposizione o comunque in scavalcamento di sostituzione di giornali e televisioni tradizionali. Questo è un grande problema per i giornali e televisioni e radio tradizionali, perché lui toglie loro l'acqua, proprio gli toglie l'acqua come dei pesci senza acqua, perché comunica direttamente. Naturalmente, comunicando direttamente, altro che lost in translation, soprattutto se c'è un bel blocco di malafede e di prevenzione, quello che lui dice può essere male interpretato. Ma a proposito della NATO, hai perfettamente ragione tu, ancora una volta non ha detto niente, per esempio, che non fosse stato detto da Barack Obama. La battuta sui free riders, cioè su quelli che salgono a bordo, non pagano il biglietto e vogliono anche decidere in che direzione andare, l'ha coniata Barack Obama a proposito dei paesi inadempienti della NATO, però non fece scandalo. Invece detta da Donald Trump ha fatto scandalo, come ha fatto scandalo l'altra frase detta durante l'incontro con Theresa May sul fatto che è ormai obsoleta per come era stata pensata, cioè per la guerra fredda, e che va ristrutturata e riorganizzata per il terrorismo e le nuove crisi in Medio Oriente. Dove sta lo scandalo? Hai assolutamente ragione, e in effetti anch'io, sempre per dovere di cronaca, ho raccontato che era stato per primo Barack Obama a dire che dobbiamo aumentare al 2% del PIL le spese militari dei paesi membri. Però giustamente tu dici, ma come mai se lo dice Barack Obama va bene e se lo dice Trump va male? Non è forse una questione di modi, di tono? Sì, però ha vinto per questo. Lui cosa ha fatto? Lui ha deciso che quella fetta di elettorato, che è la stessa che si riflette nei giornali, è la stessa che si incontra nei salotti buoni, che preferisce il fair play in America e il resto del mondo, non lo avrebbe votato mai comunque. E invece lui li ha scavalcati, ci ha scavalcati, perché in fondo tu ed io apparteniamo a quella categoria, per storia e per professioni, ci ha scavalcati. E ha parlato a Kowalski, mi viene sempre in mente Kowalski, Gran Torino, Clint Eastwood, perché quando io ho visto molti anni fa Gran Torino ho capito la crisi dell'America futura obamiana, cioè della classe bianca lasciata indietro, quella non colta, quella che non è globalizzata, quella che non si ricicla, che non cambia posto, che non cambia lavoro, quella lì è quella a cui si è rivolto Donald Trump, e se non avesse parlato e non continuasse a parlare anche oggi quel linguaggio la perderebbe. Ultima cosa, Maria Giovanna, aspettiamo il giudizio del Ninth Circuit, della Corte d'Appello, sull'ordine contro gli immigrati. Come andrà a finire? Magari con nulla di fatto, magari questa storia potrà finire solamente con giudizio definitivo e in nessun modo criticabile della Corte Suprema, possibilmente nei desideri di Donald Trump, con il nuovo giudice da lui nominato della Corte Suprema già insediato. Ci sarebbero gli altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive momenti di tensione, ma per come sempre una nuova frontiera inesplorata, potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, Maria Giovanna è sempre qui con noi. Maria, dedichiamo una canzone a Donald Trump. Nonostante non sia un'idea originale, perché l'ha fatta suonare e ballata con la moglie il giorno della festa di insediamento, non può che essere My Way, a modo mio, di Frank Sinatra, anche perché subito tutti i giornali hanno scritto che Nancy Sinatra era molto seccata di questa scelta, e invece Nancy Sinatra ha precisato, bugiardi, io non ho mai detto che non poteva suonare My Way, e quindi My Way, a modo mio. Frank Sinatra, My Way for Donald Trump. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!